notte sulla spiaggia. No, l'altra hanno visto come andò. Con te sulla spiaggia, con te sulla spiaggia non ci sto.